Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I woke up this morning. It was no different from other days. But the hospital was different, empty as you can say. As you would never imagine, all in faces rushing, crashing. Sapete cos'è questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori? Certamente è una canzone, ma è una canzone che è stata scritta da tre medici sui sentimenti dei pazienti durante l'emergenza di coronavirus, nelle terapie intensive, negli ospedali affollati sotto enorme pressione. Parlano dei sentimenti dei pazienti, del loro stupore, degli occhi persi verso i medici visti come tipi con camice bianco e del metto. Tutti immersi, concentrati, senza distinzione di ruoli, in un mondo diafano, bianco, asettico, carico di ansia e paura, dice la canzone, che si intitola I Woke Up, pezzo musicale, appunto scritto e musicato dal medico Marco Feri, direttore del reparto di rianimazione dell'ospedale San Donato di Arezzo, con la voce del cardiologo dell'ospedale della Fratta di Cortona, Paolo Angori, e che appunto dicono questa esperienza ci ha segnato inesorabilmente, ovviamente i pazienti, ma anche i medici, con queste sonorità che sentite un po' la Bruce Springsteen, tratti Led Zeppelin, insomma l'ispirazione da una parte, qualcosa che li ha colpiti profondamente nella loro sensibilità, nella loro psicologia, e dall'altra insomma ha dato anche ispirazione, pensate, per una canzone come questa. Chi avrebbe immaginato anche sarebbe nata una canzone da medici da coronavirus. Bene, adesso partiamo con i titoli. Vi ricordo che per i vostri commenti c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS e WhatsApp, in particolare WhatsApp al 349-238-6666. Parleremo di molte cose, ma già vi racconto qualcosa nella sintesi della giornata, poi gli approfondimenti con gli ospiti. I dati sul coronavirus in Italia continua la discesa, 79 morti nelle ultime 24 ore, ricoverati sono meno di 5.000, meno di 100 in terapia intensiva. Stati generali e piano di Colao, il progetto di rilancio di Conte suscita tensioni nella maggioranza e critiche dalle opposizioni. Le frontiere dell'Europa, Austria, Slovenia e Grecia si allineano all'Italia nelle riaperture. Polemica sull'OMS che dice: raro che un asintomatico possa essere contagioso, ma sono contrari diversi esperti italiani. Il processo per la morte di Martina Rossi, in appello assolti due giovani accusati di aver provocato la morte della studentessa nel 2011 dopo un tentativo di stupro. Stati Uniti, funerali di George Floyd a Houston, altri casi agitano l'America e il candidato democratico Biden dice: è giunta l'ora della giustizia razziale. Studio di Harvard, gli ospedali di Wuhan già affollati ad ottobre. Lutto nella musica, è morto Pau Donés, il cantante, cantautore, chitarrista spagnolo, leader della band Arabe de Palo, aveva 53 anni, è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro. Partiamo quindi come sempre dai dati sul Covid-19 in Italia. È stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus, è di totale naturalmente dall'inizio della pandemia di 235.561 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento rispetto a ieri di 283 casi. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. 79 sono i morti nelle ultime 24 ore, i ricoverati sono meno di 5.000 e meno di 100 sono in terapia intensiva. Il virus non è sconfitto, ha detto il ministro Speranza, bisogna insistere sulla cooperazione internazionale, sulla ricerca, sul vaccino e sulla riforma dell'OMS, lo ha detto al vertice in teleconferenza del G7 con i ministri della salute. E polemica appunto sull'OMS che dice, tra le altre cose, è raro che un asintomatico possa essere contagioso, dopo che tutta la campagna, gran parte della campagna anche in Italia, è stata fatta sul, almeno il voler fare tamponi a tappeto per scoprire gli asintomatici. Comunque ne parleremo col professor Bassetti del San Martino di Genova. Passiamo adesso ai confini interni dell'Unione, ancora trattative per unificare tempi e modi delle riaperture. Il pressing dell'Italia sulla Grecia alla fine ha prodotto il risultato sperato e il governo di Atene da lunedì toglierà in maniera graduale fino alla fine del mese tutte le limitazioni nei confronti del nostro paese. Ad annunciarlo il ministro degli esteri greco Dendias in conferenza stampa ad Atene con il suo omologo Di Maio. In Europa servono regole e criteri uniformi per la mobilità, per non frammentare il mercato del turismo, ha commentato dal canto suo il titolare della Farnesina, che continua il suo lavoro per convincere i partner europei ancora recalcitranti sulla base di dati sanitari che dice: l'Italia fornisce con la massima trasparenza. Anche l'Austria riaprirà il confine verso l'Italia il 16 giugno, secondo quanto anticipa il quotidiano viennese Der Standard. Vienna, scrive il giornale, rinuncia ad una soluzione regionale prospettata ancora ieri perché è troppo complicata nella sua applicazione. La libera circolazione viene ristabilita anche verso Croazia e Grecia, resta invece ancora in vigore lo stop ai viaggi verso la Svezia. E anche la Slovenia dovrebbe riaprire confini verso l'Italia dal 15, mentre la Slovacchia si prepara ad allungare la lista ad altri 16 paesi europei a partire da domani, ma in questa lista per ora non c'è l'Italia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Per quanto riguarda la politica interna, Stati Generali e il piano presentato ieri da Vittorio Colao, il rilancio di Conte si muove tra le proteste dell'opposizione e divisioni interne. Il Premier Conte incontra i singoli ministri in vista degli Stati Generali dell'Economia che dovrebbero prendere il via venerdì, un appuntamento che assieme al dossier del Comitato Colao sarà la base di partenza del piano di rilancio del Paese sul quale continua il confronto nella maggioranza. Il segretario del PD Zingaretti chiede al governo di essere concreto, utile e lungimirante e di ascoltare la società e le opposizioni. Il Movimento 5 Stelle ribadisce il suo no all'utilizzo del e rilancia le sue priorità, così la pentastellata Maiorino. Se vogliamo ridisegnare l'Italia del futuro occorre ascoltare tutti. Il nostro faro restano però i cittadini ed è per questo che vogliamo una sanità basata sul pubblico, vogliamo eliminare la burocrazia inutile e puntare su una crescita sostenibile che crei posti di lavoro. Il centrodestra resta invece scettico sugli Stati Generali. Il leader della Lega Salvini sottolinea che alcuni dei punti del piano Colao, come sblocco dei cantieri, taglio della burocrazia, pace fiscale e flat tax, sono gli stessi del programma della Lega. Se anche le task force nominate da Conte danno ragione alla Lega, vuol dire che le nostre idee fanno bene all'Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo adesso di prodotto interno lordo, ricchezza dei paesi. Per quanto riguarda l'Europa, Italia e Francia registrano la discesa più pesante. È un primato di cui avremmo fatto volentieri a meno, quello del maggior calo del prodotto interno lordo in Europa nei primi tre mesi del 2020. Primato condiviso con i cugini francesi, il PIL italiano ha perso oltre 5 punti percentuali sia nel confronto con il trimestre precedente, sia con lo stesso periodo di un anno prima, rispettivamente -5,3% e -5,4%. Sugli stessi livelli, oltre alla Francia, anche la Spagna. Eurostat ha rivisto leggermente al rialzo la stima sul PIL nel primo trimestre nella zona euro, -3,6% contro -3,8%. Che per il PIL italiano sarà un anno da dimenticare, lo aveva già fatto emergere ieri l'Istat, stimando una contrazione dell'8,3% nel 2020. Istat che oggi nel report sui consumi delle famiglie ha certificato che nei primi tre mesi 2020 le misure di contenimento della diffusione del coronavirus hanno prodotto un calo della spesa media mensile di circa il 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Spostiamoci all'estero, le immagini satellitari che mostrano un'impennata del numero dei veicoli fuori dai principali ospedali di Wuhan lo scorso inverno suggeriscono che il coronavirus potrebbe essersi diffuso in Cina mesi prima che le autorità riconoscessero la malattia. Emerge da uno studio della Harvard Medical School dopo l'analisi dei fotogrammi nei parcheggi dei principali ospedali di Wuhan tra gennaio 2018 e aprile 2020 e anche la ricerca delle tendenze nella navigazione su internet da parte degli abitanti di Wuhan in quel periodo dove si cercava appunto diarrea per esempio e tosse. In Francia intanto il procuratore di Parigi ha aperto un'inchiesta preliminare sulla contestata gestione della crisi nel paese, in Francia. Nel mirino ci sono eventuali reati di omicidio colposo o procurato rischio per la vita dei cittadini e per la prima volta nella storia intanto i leader mondiali a causa della pandemia non saranno a settembre a New York per il summit annuale dell'ONU. Sono stati, parliamo di Stati Uniti, celebrati a Houston, dove era cresciuto, i funerali di George Floyd, l'afroamericano morto durante un arresto a Minneapolis lo scorso 25 maggio. Il caso ha scatenato, come sapete, le proteste di milioni di persone in tutto il mondo contro il razzismo e contro la violenza della polizia americana. Un caso simile a quello di Floyd, emerso oggi in un video che risale al 28 marzo. Stop resisting! Stop resisting! È il 28 marzo ad Austin, in Texas, e le immagini riprese da una videocamera di quelle installate sull'uniforme dei poliziotti americani riprende i concitati momenti dell'arresto di Javier Ambler, afroamericano di 40 anni bloccato per non essersi fermato all'alto della polizia. Dopo un inseguimento, Ambler scende dall'auto disarmato e con le mani alzate. Gli agenti lo bloccano mentre l'uomo grida più volte «non posso respirare», fino a che non perde i sensi e muore prima dell'arrivo dei soccorsi. I metodi violenti di molti poliziotti americani sono stati al centro delle manifestazioni degli ultimi giorni e alcune città o stati cominciano a muoversi. Il consiglio comunale di Minneapolis, dove è morto George Floyd, discute di sciogliere e rifondare il dipartimento di polizia, mentre una corte locale ha ordinato profonde modifiche. Nello stato di New York è stata avviata una riforma della polizia che vieta le prese al collo e punta a rivelare i precedenti disciplinari degli agenti, finora nascosti per legge, rendendo virtualmente impossibile sapere se un poliziotto ha alle spalle una storia di abusi. Enrico Pagliarini, Radio 24, Le Sole 24 Ore. E intanto il candidato democratico alle presidenziali americane Joe Biden dice: giunta l'ora della giustizia razziale. Siamo in Sudafrica, dove c'è sgomento unito a indignazione dopo l'uccisione di una giovane 28enne accoltellata e appesa a un albero vicino a Johannesburg. Era incinta di 8 mesi, come riferiscono i media locali che citano la polizia. Scomparsa la scorsa settimana, il suo corpo è stato ritrovato ieri. L'hashtag Justice for Tsego è diventata la tendenza su Twitter in Sudafrica e il portavoce della polizia afferma che è stata aperta un'inchiesta per omicidio. Di nuovo in Italia, con la cronaca, clamorosa sentenza oggi per la morte di Martina Rossi, la studentessa precipitata dal balcone di un albergo di Palma di Maiorca nel 2011 perché, secondo l'accusa, stava cercando di fuggire da un tentativo di stupro. La Corte di Appello di Firenze ha ribaltato la sentenza di primo grado e i due imputati, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, entrambi 28enni, sono stati assolti nel processo di primo grado ad Arezzo. I giudici avevano condannato i due imputati a 6 anni di carcere ciascuno. Ci sarà spazio comunque durante questa puntata per ripercorrere questa vicenda. E poi una nuova indagine intorno all'operato di Irene Pivetti durante la fase acuta della pandemia di Covid-19. Dopo la vicenda sulle mascherine senza certificazione, Irene Pivetti risulta ora indagata dalla Procura di Milano per riciclaggio relativamente ad una società di import ed export con la Cina a lei riconducibile. Le due vicende al momento non sembrano avere connessioni. La Procura di Milano sta indagando da un anno e da poco ha effettuato una perquisizione condotta dalla Guardia di Finanza nelle sedi delle sue società e nel suo appartamento. E sono stati prelevati materiali cartacei e informatici che servirebbero a ricostruire una vicenda iniziata nel 2016. Della vicenda della società Only Logistics Italia, fornitrice di mascherine, se ne stanno occupando invece le procure di Milano, Savona e Siracusa. Il reato in questo primo caso è la frode nelle pubbliche forniture e riguarda una partita di mascherine commissionata dalla Protezione Civile. Quella di oggi sarebbe un'altra storia, persino più grave, se ovviamente verrà provata la colpevolezza di Irene Pivetti. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora la cronaca, l'attaccante spagnolo del Milan, Samu Castillejo, è stato rapinato oggi pomeriggio a Milano da 2 malviventi che gli hanno puntato una pistola in faccia intimandogli di consegnare loro l'orologio che aveva al polso. Castillejo non ha riportato ferite, ma insomma è piuttosto scosso per quanto accaduto. Depende, de che depende, de según cómo se mire todo depende. Depende, canzone notissima, famosissima, come la canzone La Flaca di Arabe De Palo, degli Arabe De Palo, che poco più di 20 anni fa ebbe un grandissimo successo in tutto il mondo, rese famoso anche in Italia. Pau Dones, il cantante, cantautore e chitarrista spagnolo, leader della band Arabe De Palo, è morto oggi all'età di 53 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore. Con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, de que depende, de según cómo se mire todo depende. Ci sentiamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre, lo sapete, ricchissimi di notizie, di aggiornamenti in diretta, di sintesi della giornata e poi approfondimenti con gli ospiti, i vostri commenti anche naturalmente come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure WhatsApp al 349-238-6666. Marcello dice: cara Roberta, ho cercato la canzone dei Medici, quella che ho fatto sentire all'inizio, i Medici Italiani che hanno scritto questa canzone, I Woke Up, dice, ma non, senza successo, hai un link, lo metterò poi dopo a fine della trasmissione sulla pagina Facebook di Effetto Notte per chi fosse interessato, oltre a Marcello. Poi invece un altro messaggio su un argomento di cui parleremo, Claudio, un altro Claudio, no, questo prima è Marcello, questo è Claudio, dice: con il caso di Martina Rossi si evidenzia ancora una volta l'inadeguatezza del sistema giudiziario, la sentenza evidenzia come il reato più grave, ovvero la morte conseguente ad altro reato, sia caduto in prescrizione, no comment. Ecco, al di là appunto di questo ribaltamento della sentenza della Corte d'Appello sul caso della povera Martina Rossi, però che fosse andato in prescrizione uno dei due reati così gravi, il fatto di aver causato la morte per tentativo di stupro, è una cosa che ho chiesto, avevo contattato l'avvocato questa sera della famiglia Rossi, che però non si sentiva di intervenire prima di aver letto le motivazioni della sentenza, che probabilmente saranno pubblicate tra un po', però ripercorreremo lo stesso con un cronista che ha seguito questa vicenda dall'inizio, un po' tutte le tappe di questi 9 anni così difficili per la famiglia di Martina. Adesso tra poco parleremo di politica, poi molti altri argomenti, tra cui questa polemica tra l'OMS, diciamo, e almeno la reazione da parte di esperti, virologi, infettivologi italiani, che non sono d'accordo sul dire che gli asintomatici raramente possono contagiare. Ma partiamo con la politica. Ieri, sapete, abbiamo parlato lungamente del piano di Vittorio Colao, leader della task, il capo della task force incaricata sin dall'inizio di coordinare l'uscita dall'emergenza, quella che doveva essere la fase 2, la fase 3, insomma la ripartenza. Ieri Vittorio Colao l'ha presentato nelle mani di Conte, questo piano di molte pagine con almeno più di 100 punti diversi, il piano per la fase 3, dal lavoro, gli argomenti dal lavoro all'istruzione, dalle infrastrutture ai trasporti, si occupa principalmente di 6 macro settori e 6 obiettivi, per sintetizzare: imprese e lavoro come motore dell'economia, infrastrutture e ambiente come volano del rilancio, turismo, arte e cultura come brand del paese, una pubblica amministrazione alleata dei cittadini e delle imprese, istruzione, ricerca e competenze come fattori chiave per lo sviluppo, individui e famiglia in una società più inclusiva ed equa. L'obiettivo del rapporto, ieri era stato sottolineato, è un'Italia più forte, resiliente ed equa, per l'appunto. Saluto la nostra cara Betta Fiorito in diretta da Roma. Ciao Betta. Buonasera, buonasera radioascoltatori. Insomma, questo piano ampio, articolato di Colao tenta di semplificare in diversi punti, ci sono diversi punti apprezzabili e poi forse come mai prima in questo piano di Colao ci sono dei provvedimenti atti ad assicurare la parità di genere come non era davvero mai successo. Devo dire, ci sono tanti aspetti molto interessanti, però ho come l'impressione, Betta, che abbia quasi più convinto paradossalmente le opposizioni che non la stessa maggioranza. Sentiamo qualche passaggio, per esempio Salvini, leader della Lega, oggi: se ci portano in aula il taglio delle tasse, il taglio della burocrazia, li votiamo. Il problema è che per 3 mesi non ci hanno manco ascoltato, però magari meglio tardi che mai. E poi Gasparri di Forza Italia, sempre sul piano della ripartenza di Colao. Ce ne sono alcune interessanti, alcune scontate, alcune da discutere. Però bisognerebbe avere un tavolo di confronto nel Parlamento tra maggioranza e opposizione. Il governo invece pensa a proprie passerelle, non cerca il confronto. Noi siamo pronti in qualsiasi momento, in base ai nostri emendamenti, anche a discutere il progetto di Colao, che ha anche alcuni contenuti apprezzabili ed altri anche prevedibili. Sentiamo adesso Misiani invece del Partito Democratico, che è naturalmente uno dei due principali partiti di questa maggioranza di governo. Il documento e le schede prodotte dal Comitato Colao siano molto importanti e molto interessanti. Non è vero che siano proposte scontate, c'è una visione che ispira queste proposte che io ritengo largamente condivisibile. Allora Betta, Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, dice: abbiamo qualche perplessità sui condoni, per lo più mi pare che si parli di condoni fiscali, mentre il PD diciamo che ha diversi dubbi, per esempio sull'approccio nei confronti della scuola, su per esempio quel progetto Adotta una classe, dice: non dobbiamo fare beneficenza ma veri investimenti per la scuola. Che te ne sembra quindi di queste posizioni? Allora, sì. No, ma parliamo del piano Colao, perché capisci attraverso il piano Colao perché non può piacere 5 Stelle. Il piano Colao vuole le infrastrutture, quindi vuole l'alta velocità. Hai presente l'alta velocità? Sì. Quella che i 5 Stelle non vogliono mai. Vogliono le reti 5G. Vogliamo parlare di tutti quanti i complottisti che dicono che le reti 5G provocano di tutto e di più, fra un po' provocano anche il coronavirus. Vabbè, non sono, vogliamo sono le 5 parlare stelle, non della defiscalizzazione delle imprese, e magari vogliamo anche parlare di uno scudo penale per le aziende sul Covid-19. È chiaro che tutte queste cose sono praticamente contrari a quelle che è la teoria del Movimento 5 Stelle. Pagamenti elettronici, abolizione, banconote da 500 euro, questo va bene per i 5 Stelle. Accelerazione sul 5G non va bene per i 5 Stelle. Insomma, è un piano per rilanciare l'Italia che vede anche le aziende al centro, quindi no a queste misure, diciamo così, come il reddito di cittadinanza, ma invece misure di sostegno all'economia reale. E quindi è per questo motivo che il piano Colao è stato accantonato. Perché? Perché dice troppa verità. Non è stato dice ancora accantonato. Come noi dobbiamo cambiare il nostro paese a scapito dell'assistenzialismo. Però, questa scusa, è la realtà. Conte ha detto, mi pare che abbia detto poi ieri in serata, se non sbaglio, questo è un contributo, non è che dice la parola definitiva su quello che faremo, è un contributo. No, Roberta, no, noi ci siamo anche stufati come cittadini di questi contributi. Il Presidente del Consiglio ha chiamato un esperto, un super Colao, manager, quale Vittorio Colao, manager, e ieri è stato sottolineato che ha lavorato gratuitamente, lui e il comitato, hanno lavorato ma gli ha presentato un piano, sì. E adesso non è perché siccome non piace alla tua forza politica e che tu devi dire praticamente che non va bene, è un contributo. Anche questi stati generali dell'economia, anche qualcuno del PD, sembrava mi convince. Non voglio dire che Meloni e Salvini hanno ragione, ma lo dico, hanno ragione. Sarà una passerella mediatica nella splendida cornice di Villa Panfili, che non ha costruito Conte, va bene, ma hanno costruito i papi sfruttando il lavoro. All'epoca non c'era lo sfruttamento, non c'erano le otto ore lavorative, non era considerato sfruttamento, nel senso si sfruttava e basta, era sfruttamento e basta della classe diciamo così proletaria dell'epoca, va bene, se così vogliamo dire, prima ancora che il concetto di proletariato ci fosse. Cioè, in questa splendida arriva Conte e ci parla con gli stati generali che partono venerdì appunto a Villa Panfili, come tu hai ricordato, e vedevo che va avanti da venerdì a lunedì, saranno quindi 4 giorni di confronto, lunedì ci saranno le parti sociali, poi vedevo che c'è anche una giornata, sabato dovrebbe essere, sì, che è il giorno dedicato ai colloqui di profilo europeo e internazionale, addirittura ci saranno in collegamento fra gli altri la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, quindi diciamo un grande confronto, un grande pensatoio di 4 giorni, speriamo che poi fuoriesca qualcosa di estremamente concreto, perché anche ieri Zingaretti, ti faccio sentire Zingaretti che cosa ha detto ieri durante la direzione del PD, quando ha detto qui ci giochiamo il futuro della legislatura ma anche quello dell'Italia. Io credo siamo giunti a un momento davvero cruciale nel quale si giocano i destini non solo di una legislatura ma del futuro dell'Italia. Sono pienamente consapevole dei pericoli che ci sono, ma il mio giudizio, lo voglio dire subito, è fiducioso e dobbiamo chiamare il Paese a ricostruire fiducia. Quindi ieri Zingaretti che ha detto ma io non sono in contrasto con Conte, però è stata una sollecitazione, un messaggio forte da parte lui della direzione del PD a dire qui bisogna stringere i tempi, andare insomma fare bene presto perché il tempo corre e non c'è più possibilità di aspettare, no? per il Paese, per chi appunto vista questa gravissima crisi economica dalla quale bisogna cominciare a risollevarsi, altrimenti... Betta, sentivamo anche prima del PIL. Ma, sì. Sai Roberta, il problema è sempre come spendiamo i soldi, se ci arriveranno, perché in Europa è in corso una trattativa molto molto spinosa con la Commissione, no? Perché Olanda, Austria, Ungheria oggi hanno detto no, noi questi recovery fund non li vogliamo perché tanto sono tutte quante prebende per i paesi del sud. Ora, a parte l'Ungheria che non conta niente, sì, perché che, gli abbiamo dato e che più dice soldi, per i paesi del sud europea, l'Ungheria dovrebbe stare solo, diciamo così, sì. Orban farebbe meglio a tacere, vabbè, lasciamo, anche per altri motivi. L'Austria e l'Olanda sono due paesi piccolini e questo va detto, l'Italia è un paese un pochino più importante e l'Olanda poi dovrebbe stare zitta per tutte quante le defiscalizzazioni che dà alle aziende, anche però italiane, e questo l'Unione Europea deve pure vedere queste cose, no? Al suo interno, non puoi far rigorista quando poi tu fai entrare le grandi aziende, anche italiane, che poi defiscalizzano, e no, perché allora, insomma, non puoi alzare la voce. Allora, sicuramente ci sarà la Germania e la Francia che poi decideranno tutti, no? Tutto, e va bene. Il problema è un altro. Come noi, questi soldi che arriveranno, perché poi alla fine questi tre paesi piccolini non possono assolutamente fare nulla, perché anche loro hanno i loro cadaveri, come li vogliamo spendere? Nell'armadio, vuol dire, li vogliamo spendere perché dobbiamo dare il reddito di cittadinanza a persone che per carità magari hanno perso il lavoro o magari non l'hanno mai cercato, o li vogliamo dare alle imprese che fanno infrastrutture, che poi generano posti di lavoro, che magari faranno sì che quelli che chiedono il reddito di cittadinanza non abbiano più bisogno di chiederlo? Perché questa è la realtà. Allora, che facciamo a fare questi stati generali se, caro Premier Giuseppe Conte, stai riferendo direttamente a Casalino, sì, che il suo caro Rocco Casalino, che tu stato. Organizzi questa kermesse mediatica perché Roma è bella, quindi qualsiasi cosa, no? Tu fai vedere, la fai pure a San Pietro, con lo sfondo di San Pietro, è bellissima, grande successo mediatico. Che li organizziamo a fare se tu all'interno del tuo governo, caro Giuseppe Conte, non parli col ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che non sapeva degli stati generali? Chi vogliamo prendere in sì, giro? Sì, è vero che c'è stata una critica nei giorni scorsi, perché quando Conte ha annunciato questi stati generali e dell'economia, ragione, da varie parti si sono Giorgia dette all'interno del governo non ci ha consultati, non ce l'aveva detto, si era dimenticato. Attenzione, sì. Ha ragione Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, opposizione, che dice gli stati generali si fanno in Parlamento. Ha ragione lei, non è che bisogna andare a Villa Panfili, scusami il romanesco, capito? Non è che bisogna andare a Villa Panfili. Lo chiedeva per esempio no. anche Francesco, questo ascoltatore, perché non in Parlamento? E si vede che lì a Villa Panfili c'è più spazio, c'è una scenografia diversa, c'è un posto. Ha diciamo una rilevanza più internazionale probabilmente. Si fa non lo una so. Adesso l'importante sono i contenuti. Si va in commissione bilancio. Sì. Riunita Camera e Senato, si fanno le audizioni e si sentono le parti sociali, non si fanno queste cose mediatiche. Lo faranno sulle parti sociali. Betta, scusami, a proposito di chi ci sarà o non ci sarà, ieri avevo citato il ministro Provenzano, ministro del Sud, veramente per quale ho una grande ammirazione dopo questo gesto, che ha declinato l'invito, ha detto di no a un invito con vari esperti per la ripartenza dopo la pandemia, un tavolo di lavoro virtuale al quale sono stati invitati, dice, a partecipare soltanto uomini, al punto che più di discriminazione, ha detto Provenzano, qui c'è proprio una rimozione di genere. Me ne accorgo solo ora, scrive il ministro su Twitter, postando le foto con l'elenco dei partecipanti tutti al maschile, è l'immagine non di uno squilibrio ma di una rimozione di genere, mi scuso con gli organizzatori eccetera eccetera, ma io mi tolgo da questa lunga lista di nomi, devo dire tanto di cappello, anche se in questo momento non ce l'ho, al ministro, sai, Provenzano. Sì? Roberta, dica. Posso citarti due donne? Sì? Te le citerò. Una si chiamava Golda Meir. Beh, non c'è bisogno di andare lontano nel tempo e nello spazio. Grande primo ministro. Sì, ce ne sono anche più. La seconda si chiama Angela Merkel. Primo grande ministro, cancelliera, eccetera, tutto quanto. Quattro volte rieletta, mi se pare. Se l'Italia... No, e te ne cito anche una terza. Margaret Thatcher. Sì. E può piacere o non piacere, però è una donna che ha segnato la storia. Praticamente una donna anche un po' controversa, no? Rispetto a quello che sono le istanze femministe, no? Sì. Però, Premier Tory, se noi in Italia non capiamo che prima o poi ci deve essere un Premier donna, ci deve essere un Presidente della Repubblica donna, ci devono essere le donne dentro le aziende, dentro i top, dentro questo paese rimane terribilmente arretrato. Noi su questo siamo d'accordo. Siamo quanto l'ultimo fanalino dell'Europa? Sì. Questo noi siamo, perché finché non capiamo questa semplice regola, che grandi donne fanno la grande storia, e siamo e continuiamo a essere un paese maschilista in cui in emergenza Covid non c'era una donna nella protezione civile al top, uno scandalo vero. Poi bisogna, in Lombardia c'è un presidente della regione donna? No. Un assessore del welfare donna? No. Guarda il disastro che avete avuto voi in Lombardia. Vabbè, questa è una lunga storia e lì bisognerà poi vedere la magistratura che cosa riuscirà ad accertare. Grazie alla nostra Betta Fiorito. Qualcuno addirittura dice: Elisabetta Fiorito for president, provaci almeno, dai, almeno provaci. Betta, a ben presto. Io non voglio fare the president. No, di qualsiasi cosa, anche del circolo. Finché non si investe nelle donne in questo paese non si andrà da nessuna parte. Sono d'accordo con te. Grazie alla nostra Betta Fiorito, ci fermiamo giusto per una breve pausa di riflessione, di respiro. Voi continuate con i vostri WhatsApp al 349-238-6666 oppure i commenti a pagina, sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Torno a momenti con questa polemica che riguarda ancora una volta l'OMS. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Lo sapete che se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano a darvi tutte le sere un quadro il più possibile esauriente e chiaro delle notizie più importanti dall'Italia e dall'estero verso la fine della giornata e poi alcuni argomenti che approfondisco insieme agli ospiti e poi gli aggiornamenti in diretta. Vedo per esempio che Trump è stato a un passo dal silurare il capo del Pentagono, cosa che diciamo era un po' nell'aria. Sapete che dopo la morte di George Floyd, l'afroamericano appunto di cui oggi sono stati anche i funerali a Houston e che ha suscitato una reazione mondiale, è stato veramente forte, questa ha assunto una dimensione internazionale, la morte di George Floyd e le accuse nei confronti dei poliziotti, di una polizia che abusa troppo spesso di violenza, e il capo del Pentagono si era rifiutato nei giorni scorsi, quindi il ministro della difesa americano, di mandare l'esercito per sedare le proteste nelle varie città americane, e in effetti si pensava a vedere che adesso Trump, come ha fatto con altri ministri, lo detronizza e in effetti voleva silurarlo, però per il momento rimane lì il capo del Pentagono. Mentre invece vedo che l'Austria, che aveva annunciato di aprire per il 16 giugno le frontiere, non esclude che potrebbe fare delle differenze regionali per quanto riguarda l'Italia. Non parliamo di controlli ma di autoresponsabilità, riguarderebbe esclusivamente forse la Lombardia, dice così per il momento, insomma. E poi Merkel e Macron, la cancelliera francese, il presidente francese e altri quattro membri dell'Unione Europea hanno inviato una lettera alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere che l'Unione Europea si prepari alla prossima ondata della pandemia da coronavirus, quindi ci si porta avanti dopo insomma aver perso del tempo per vari motivi. A proposito di coronavirus, dall'inizio della pandemia, a parte la grande tragedia dei tantissimi morti nel mondo e in Italia e della grave crisi economica che ne è scaturita, sono state dette tante cose, no? A volte anche smentite, ritrattate, perché del resto si sa che si è trattato di un virus sconosciuto che ci ha presi un po' alle spalle, che ha costretto tutti a navigare a vista, anche se bisogna riconoscere che nell'arco di 3-4 mesi alla fine si sono prodotte veramente tante informazioni, conoscenze come forse in così poco tempo non era mai successo. Va detto però che anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un po' nel mirino, nell'occhio del ciclone da qualche tempo, qualche volta ha generato non poca confusione, per esempio sulle mascherine. Per tanti mesi, per tanto tempo, ha detto che non erano indispensabili, che ci doveva essere il distanziamento, lavarsi le mani, eccetera, però le mascherine non erano poi così imprescindibili, mentre adesso, l'altro ieri, ha detto che sono necessarie le mascherine. Ora, c'è un'altra dichiarazione dell'OMS che ha suscitato un po' di dibattito e viene dalle parole dell'epidemiologa americana Maria Van Kerkhove, che è a capo del team tecnico Covid dell'OMS. Ha detto: è molto raro che una persona sintomatica possa trasmettere il coronavirus. ha detto: noi stiamo analizzando i dati di diversi paesi impegnati tramite tamponi, test serologici a misurare il reale impatto dell'epidemia sulla popolazione, e ci sembra insomma che forse perché gli asintomatici hanno poca carica virale, quando parlano, quando emettono queste goccioline, e contagiano poco. Poi oggi ha fatto una specie di passo indietro, però ci sono state varie reazioni da esperti italiani, e tra questi coinvolgo subito il professor Matteo Bassetti, che è direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e ordinario di malattie infettive all'Università sempre di Genova. Professor Bassetti, grazie della disponibilità e benvenuto. Grazie, buonasera a lei. Mi pare che anche lei non abbia preso bene questa dichiarazione che viene da questa esponente dell'OMS, professore. Ma non ho preso bene, nel senso che secondo me quando si danno delle informazioni così importanti e così pesanti per le ripercussioni che hanno evidentemente su un paese, bisogna darle nei momenti in cui ci sono dei dati certi. Non credo che sia possibile dire forse, quando si danno evidentemente dei comunicati su un argomento così delicato, bisogna esserne certi, anche perché proprio l'OMS poco tempo prima aveva detto esattamente il contrario. Quindi in questo senso occorre, a mio parere, tanta cautela su un argomento sul quale noi in Italia stiamo facendo tantissimo, perché non dimentichiamoci che tutte le misure che noi stiamo applicando sono fondamentalmente le misure per evitare i contagi dagli asintomatici, e i tamponi vengono evidentemente fatti proprio per quello. E infatti proprio l'OMS, come dice lei, professor Bassetti, aveva detto tamponi, testa a tappeto, proprio perché si pensava, almeno fino a si pensa che una specie di bomba, orologeria, di potenziale bomba potessero essere proprio la grande massa di asintomatici, no? Che probabilmente saranno la gran parte, altrimenti sarebbe stata un'ulteriore strage anche nel nostro paese, così come nel mondo. Ma sì, io credo che gli asintomatici rappresentino un capitolo che debba essere ulteriormente studiato, perché forse noi mettiamo all'interno del capitolo asintomatici tante cose che sono anche diverse tra di loro, perché abbiamo sicuramente l'asintomatico che rimarrà sempre asintomatico, quindi senza nessun sintomo, ma all'interno ci possono essere per esempio quelli che sono nella fase di incubazione, quindi nella fase cosiddetta prodromica dei sintomi, che sono in quel momento asintomatici, ma che evidentemente avranno una carica virale molto più alta perché di lì a poco svilupperanno i sintomi. E poi abbiamo quelli che magari sono poco sintomatici, cosiddetti pauci sintomatici, che magari riferiscono a chi li intervista di essere asintomatici perché non danno magari importanza a dei sintomi che nella realtà non sono quelli classici del Covid, no? Una banale congiuntivite, un po' di fatica, un po' di stanchezza che uno li interpreta come legati a chissà che cosa o a qualcos'altro, e nella realtà magari stanno facendo una forma non asintomatica ma pauci sintomatica. È chiaro che in questi tre scenari avremo probabilmente tre cariche molto diverse. Nell'asintomatico probabilmente la carica virale è veramente molto bassa e potrebbe anche confermare quello che dice l'OMS, mentre negli altri due scenari è probabile che la carica sia più elevata. Quindi io credo che un argomento che andrebbe studiato è non solo andare a dire se c'è o non c'è il virus nel tampone, ma anche dire quanto ce n'è. E evidentemente questo potrebbe essere un ottimo strumento quantitativo per definire la contagiosità o meno di un soggetto. Quindi un ulteriore approfondimento. Professore, Crisanti, che è ordinario di microbiologia all'Università di Padova ed è membro della task force del Veneto, insomma, che ha coordinato l'azione anti-Covid in Veneto finora, ha detto che la misurazione della febbre quando si entra in un negozio o in qualsiasi posto pubblico o al chiuso è una buffonata, perché dice appunto ci sono talmente tanti asintomatici, quindi essendo asintomatici neanche hanno la febbre, che dice quindi è assolutamente una cosa inutile. Che ne pensa lei? Ma allora è evidente che è una misura, io non credo che sia realmente una buffonata, nel senso che ci sono studi che dimostrano che per esempio la misurazione della temperatura in partenza da un paese è molto utile per evitare che una determinata infezione esca, quindi potrebbe essere utile. Tuttavia andiamo verso la stagione estiva, dove sappiamo che le temperature influenzano moltissimo la temperatura corporea, e quindi diventa una misura che potrebbe poi anche creare dei problemi, perché lei si immagini al 15 di agosto a misurare la temperatura all'ingresso di uno stabilimento balneare, tutti con la febbre. Si rischia di avere delle variazioni della temperatura, soprattutto con questi strumenti che non hanno contatto significativi, per cui in effetti è una misura che da sola non ha un così elevato significato scientifico, deve essere ovviamente messa insieme ad altri parametri, intervista, la cosiddetta anamnesi per capire se ci sono stati contatti, e allora la la misurazione della temperatura è uno degli strumenti per fare il cosiddetto triage. Almeno si fa, dice, all'inizio una selezione, almeno quelli con la febbre, per quanto riguarda questa stagione, non quando sarà più caldo, sono già una prima parte di persone selezionate che potrebbero essere appunto positive. Professor Bassetti, io non mi farò prendere dalla tentazione di chiederle, come si continua a chiedere, ci sarà questa seconda ondata? Leggevo poco fa appunto di Merkel e Macron che hanno chiesto all'Unione Europea di prepararsi alla seconda ondata. Non glielo chiedo, no? Me la vuol chiedere, io le rispondo come dovrebbe rispondere ognuno di noi. Sì. Questo virus è arrivato, è evidente che ha gironzolato parecchio, sta gironzolando ancora in tutto il mondo, e quindi non credo che se ne andrà tanto facilmente. Il problema è vedere come si ripresenterà. Io non credo che si ripresenterà con la stessa aggressività con cui si è presentato a marzo, un po' perché siamo i più bravi, un po' perché il sistema è sicuramente più pronto negli ospedali, nei laboratori, sul territorio. Io credo che bisognerà imparare a conviverci con tutti gli strumenti che abbiamo imparato ad utilizzare in questi tre mesi. Quindi io sono moderatamente ottimista. È chiaro che non bisogna neanche fare del terrorismo. Ecco, io oggi ho sentito dire: ah, adesso le scuole non le possiamo riaprire, se si vota, si ritornerà a scuola, tutti si infetteranno. Ecco, bisogna essere, secondo me, un po' più cauti. Bene, ci ha dato un po' di speranza, un po' di parole confortanti di cui abbiamo bisogno dopo un lungo periodo molto duro, soprattutto per voi, per i medici, infermieri, chiunque abbia lavorato insomma durante questa emergenza. Grazie professor Bassetti, grazie mille. Buonasera. Grazie, buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Adesso invece ci dedichiamo un po' alla cultura con la nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Roberta, ciao a tutti. Il suo cacciatore di libri che si occupa appunto dei libri in uscita e quindi anche naturalmente di un grande premio letterario come il premio Strega di grandissimo prestigio. C'è stata la selezione dei finalisti, la famosa cinquina, però mi pare che sia una sestina. Come mai, Alessandra? Perché quest'anno per la prima volta è stata applicata la cosiddetta clausola di salvaguardia che era stata introdotta alcuni anni fa e che prevede che se nei cinque finalisti non c'è alcun libro di una casa editrice medio-piccola, venga ripescato sostanzialmente il primo pubblicato da una casa editrice medio-piccola della classifica. In questo caso è stato, diciamo, ripescato Jonathan Bazzi, autore di Febbre, pubblicato da Fandango Libri, che aveva ottenuto 137 voti e che era arrivato, diciamo, settimo, però la sesta, Marta Barone, è stata pubblicata da Bompiani, gruppo Bompiani Giunti, quindi sempre un grande editore, e allora si è andato così al settimo, diciamo, della classifica, il primo di una casa editrice medio-piccola. Quindi sono sei finalisti, no? Tra l'altro Oggi è stato anche premiato il vincitore del premio Strega Giovani. Il premio Strega Giovani, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non è lo scrittore giovane, ma sono i giovani che votano appunto il candidato dello Strega, perché sono degli studenti delle scuole superiori sostanzialmente, ed è stato premiato Daniele Mencarelli con Tutto chiede salvezza, pubblicato da Mondadori, che è anche uno dei sei finalisti del premio, definiamolo così, maggiore, insomma, della classe titolare. Quindi la sestina è composta da Sandro Veronesi, da Gianrico Carofiglio, Valeria Parrella, Gian Arturo Ferrari e Daniele Mencarelli, per Jonathan Bazzi che tu ricordavi. Che commento faresti su questi, cioè i tuoi pronostici, Alessandra? So che tu leggi tutto quello che esce. I libri dello Strega naturalmente li ho letti tutti, infatti ci sono anche le interviste che sono andate in onda sul cacciatore di libri, si possono volendo ricordo sabato alle 6.30 e alle 15.30. Allora, diciamo che Sandro Veronesi è stato considerato quest'anno un po' il vincitore annunciato, ma non bisogna mai dire con lo Strega, perché veramente fino all'ultimo può accadere di tutto. Nel momento in cui è stato candidato anche Gianrico Carofiglio si è detto sarà un testa a testa fra Veronesi e Carofiglio. Probabilmente andrà così, però veramente è complicato anche fare dei calcoli, perché mentre in questa prima fase i giurati, in tutto sono 660, danno tre preferenze, al prossimo step daranno una sola preferenza. Quindi bisogna vedere, magari uno a questo primo giro ha votato Veronesi, Carofiglio, Ferrari, dico a caso, e però dovrà scegliere in ultima istanza chi votare del tre che aveva scelto in prima votazione. Diciamo che sono tutti romanzi che sono molto concentrati sull'idea del tempo che passa, sono concentrati sul sé e sul concetto del tempo, mentre per esempio negli ultimi anni erano stati favoriti i romanzi storici, penso alla vittoria di Elena Janecek con La ragazza con la laica o quella di Scurati l'anno scorso con Emma, il romanzo su Mussolini, anni fa c'erano stati temi di grande, dell'attualità, dell'oggi, i romanzi di quest'anno sono molto concentrati sul sé, una sorta di autobiografia, non tutti chiaramente, alcuni, però soprattutto sul concetto del tempo che passa, se vogliamo così trovare un filo conduttore. Alessandra, per chiudere, quando ci sarà la premiazione vincitore-vincitrice? La finale, come sempre da tradizione, il primo giovedì di luglio, quindi il 2 luglio, come sempre all'Inseo di Villa Giulia, ovviamente quest'anno a causa Covid non si potrà avere tutta la massa di gente che viene invitata in quella serata, ma sarà a ingressi decisamente contingentati e sarà, come sempre, trasmessa in televisione. Ci aggiorneremo allora per quella data. Grazie Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Grazie a voi. Ciao. Adesso invece torniamo su una vicenda, il caso della morte di Martina Rossi, la studentessa di 20 anni, vi ricorderete, precipitata dal balcone di un albergo di Palma di Maiorca nel 2011 perché, secondo l'accusa, stava cercando di fuggire da un tentativo di stupro da parte di due coetanei italiani. Oggi però è arrivata la clamorosa sentenza per la morte di Martina, cioè la Corte d'Appello di Firenze, quindi in secondo grado, ha ribaltato la sentenza di primo grado. I due imputati, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, entrambi di 28 anni, entrambi della provincia di Arezzo, sono stati assolti, mentre nel processo di primo grado ad Arezzo erano stati condannati a 6 anni di carcere perché riconosciuti colpevoli di morte come conseguenza di altro reato e tentata violenza di gruppo. Ne voglio parlare con un giornalista che l'ha seguito dall'inizio questa vicenda, Salvatore Mannino della Nazione. Ciao Salvatore, buonasera. Buonasera. Salvatore, quindi il padre di Martina, oggi i genitori seguivano questa udienza, ha detto non c'è niente, Martina non c'è più e anche la giustizia non c'è più, quindi ritengono che dopo 9 anni insomma non sia stata fatta giustizia per la morte della figlia. No, questa è vera, è stata la prima reazione, anche a me ha detto mi sento come se mi fosse passato sopra un carro armato, però l'ho trovato al tempo stesso combattivo e deciso a non fermarsi ancora, anche se ovviamente a questo punto non dipende soltanto da lui, perché come sicuramente tu saprai, ma lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, la famiglia a questo punto non può fare ricorso in Cassazione, non può fare soltanto la Procura Generale e quindi dipende ovviamente da quello che deciderà la Procura Generale, cioè se riterrà nel momento in cui saranno state depositate le case di motivazione fra 45 giorni, se riterrà che ci siano motivi sufficienti per fare ricorso in Cassazione. Senti, Salvatore, io ho cercato di contattare l'avvocato oggi, che ho sentito anche per il primo grado, la sentenza di primo grado, e mi ha detto che appunto voleva aspettare di leggere le motivazioni, non si sentiva di commentare oggi, però insomma è stato proprio un ribaltamento, nel senso, quindi secondo i giudici che cosa è successo a Martina, se non è scappata terrorizzata appunto precipitando dalla finestra per evitare questo stupro, che motivazioni hanno dato? Dai, questo è ancora troppo presto per saperlo, perché come tu sai sicuramente oggi è stato letto soltanto un dispositivo di sentenza, le motivazioni saranno depositate in seguito. Ma la difesa avrà argomentato, avrà detto sì, no? Quale... Ovviamente loro hanno puntato tutto, sì. Questo è un processo, fin dall'inizio è un processo indiziario nel quale gli indizi possono essere letti in una chiave o in un'altra. Ovviamente loro hanno argomentato su due tipi di ipotesi, cioè hanno cercato di valorizzare le testimonianze come quella della cameriera spagnola che aveva parlato fin dall'inizio di una caduta volontaria, e nello stesso tempo hanno ribadito quello che è un principio giuridico fondamentale, cioè che l'onere della prova spetta all'accusa, quindi che non sono loro a dire quello che è successo, ma deve essere l'accusa a provare il contrario. L'accusa c'era riuscita in primo grado e evidentemente poi i giudici ci diranno per quali motivi non è stata convincente nel processo. Aspetteremo questa motivazione, soprattutto l'aspetterà la famiglia di Martina Rossi, visto che dopo 9 anni insomma il padre dice è stata infangata la sua memoria a pensare che si sia suicidata, perché sono convinti i genitori che non si tratti di questo. Bene, grazie tanto a Salvatore Mannino, alla Nazione, buon lavoro. Grazie, ciao Salvatore. Ciao. Grazie. ritorno alla ratta come la fulgore.